Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9 e 7 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. Il caso di Eluana Englaro ha accelerato il dibattito politico su quella che è diventata ormai per tutti gli schieramenti una necessità non più rinviabile, quella di fare una legge sul testamento biologico o dichiarazione anticipata di trattamento, se la volete chiamare così. Una legge per evitare che un altro caso del genere, altri casi del genere vengano decisi dalla magistratura. Il problema è che dire ci vuole una legge suona poco più che un proclama, insomma è da anni che il Parlamento ne parla, giacciono in questo momento in Parlamento sul tema 10 proposte di legge, 5 sono del PD, una dei radicali, 3 del Popolo della Libertà, una della Lega, ovviamente tutte con approcci diversi, posizioni differenti, appunto come detto solo 5 nel PD, sapete lì convivono l'anima laica, l'anima dei cosiddetti teodem cattolica. E dunque, quale legge fare per il testamento biologico? Il sottosegretario Roccella ha posto alcuni paletti fermi un paio di giorni fa in un'intervista. Per esempio, dice, il testamento biologico non dovrebbe essere vincolante per il medico. Poi, come farlo? Con una semplice dichiarazione? No, bisognerebbe farlo dopo un colloquio col medico. E poi, non farlo una volta per sempre, ma confermarne la volontà ogni tot anni. E ancora, forse la discussione più importante, il nodo cruciale, quello dell'idratazione e alimentazione artificiale, quella a cui per esempio è legata Eluana Englaro. Sono terapie e dunque rifiutabili, come dice la Costituzione l'articolo 32, oppure sono sostegno vitale, dunque irrinunciabili, dunque non rifiutabili mai? Insomma, temi molto importanti di cui vogliamo discutere oggi. Lo facciamo con due parlamentari che saluto, l'onorevole Paola Binetti del Partito Democratico che tra poco ci raggiunge, l'onorevole Benedetto Della Vedova del Popolo della Libertà, buongiorno Della Vedova. Buongiorno. Tra poco ci raggiunge anche Paola Binetti. Voglio salutare anche l'avvocato Maria Grazia Scacchetti che insegna diritto romano anche all'Università di Modena e Reggio Emilia, buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno. Perché da Modena partiremo per raccontarvi una storia di cui avevamo già parlato in passato, quella legata a una legge, si chiama legge Cendon, perché in Italia c'è un caso assai interessante da studiare, è il primo di questo genere di cui l'avvocato Scacchetti ci parlerà tra poco. Alle 9:11, quale legge sul testamento biologico? Allora ci ha raggiunto insieme all'onorevole Della Vedova, voglio salutare l'onorevole Paola Binetti, buongiorno e benvenuta, buongiorno. Del Partito Democratico. Ovviamente testamento biologico, visto che ieri ancora sul Corriere della Sera si diceva un italiano su due sostanzialmente non sa che cosa significhi, è quel documento che viene compilato e viene fatto in condizioni di lucidità mentale e totale da una persona perfettamente sana, con la quale si dice, si affida al medico delle indicazioni sui trattamenti futuri che una persona vuole ricevere oppure vuole rifiutare nel caso si arrivi a una situazione di malattia grave o di impedimento di esprimere la propria volontà. In Italia ancora non c'è, c'è in diversi paesi come gli Stati Uniti, c'è in Canada, in Australia, in Germania, in Olanda, in Spagna, in Francia, in Italia si discute molto di una legge, quale legge? Soprattutto il caso Eluana Englaro ovviamente ha accelerato questo dibattito. Partiamo però da Modena, come detto, l'avvocato Maria Grazia Scacchetti. Avvocato, verso credo giugno di quest'anno una persona bussa al suo ufficio e chiede che cosa? Chiede di essere sicuro di non fare la fine di Eluana Englaro, sollecitato probabilmente dal fatto che sicuramente nel maggio 2008 il giudice tutelare del Tribunale di Modena ha emesso un decreto con il quale ha nominato amministratore di sostegno per la signora Santoro, un caso famoso che è stato anche alla ribalta della cronaca, ha nominato amministratore di sostegno per la moglie ammalata di SLA il marito affinché nel momento in cui si sarebbe verificata la crisi respiratoria che era prevista nel giro di una settimana, 10 giorni, negasse ai sanitari coinvolti il consenso ad effettuare la tracheostomia. Sì, di questo caso ce ne siamo occupati anche noi, forse ricorderete, c'era all'epoca, ne abbiamo parlato con il figlio della signora che ebbe appunto questa possibilità. Cioè, questo signore è perfettamente in salute? Sì, questo signore è perfettamente in salute. È venuto da me e appunto mi ha detto: ma io sono perfettamente in salute, vorrei fare la stessa cosa che ha fatto la signora Santoro, è possibile? E quindi io gli ho detto: guardi, la verità, non lo so se è possibile, secondo me c'è una strada, però il risultato non è garantito. Questa strada si chiama legge Cendon, è una legge del 2004, una legge in realtà nata per un motivo diverso rispetto a quello per cui si è rivolto questa persona. Beh, diverso. La legge Cendon è stata studiata e approvata per introdurre nel nostro ordinamento delle misure di sostegno delle persone che non deboli, delle persone che non fossero capaci di provvedere da sole ai propri interessi, e per interessi per la prima volta nel nostro ordinamento è stato chiarito che si doveva trattare di interessi non soltanto di carattere patrimoniale, come fanno l'istituto dell'interdizione e dell'inabilitazione, ma anche di carattere personale, cioè il principio che deve essere salvaguardato in forza di questa legge è quello del rispetto della volontà della persona in difficoltà, della persona incapace. E già dalla sua uscita, già dal 2004, i maggiori, più autorevoli commentatori della legge si sono posti il problema se questa normativa potesse essere utilizzata anche per le disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari. Perfetto, e qui a Modena il giudice tutelare Stanzani ha accettato sostanzialmente la richiesta della persona che si è rivolta a lei, cioè sì. Che cosa ha accettato? Che questa persona perfettamente sana, in caso di malattia futura, potrà decidere, potrà fare che cosa? Sì, allora ha accettato, diciamo così, di nominare un amministratore di sostegno per l'ipotesi futura ed eventuale in cui questo soggetto, oggi perfettamente capace di intendere e capace di manifestare la propria volontà e sano, si trovasse in una situazione di malattia allo stato terminale, malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile e invalidante, oppure di una malattia che lo costringesse a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscono una normale vita di relazione, che in questi casi, dicevo, la persona che gode della sua massima fiducia, anzi le persone che godono della sua massima fiducia, cioè la moglie e in caso di impedimento della moglie la loro figlia maggiorenne, negasse al posto suo, in sua rappresentanza, il consenso ai medici coinvolti a praticargli la rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusione di sangue, terapia antibiotica e ventilazione, idratazione, alimentazione forzata. Questo è vincolante? Cioè è un testamento biologico di fatto, anche se in Italia... È un testamento biologico e molto di più, perché questo è un decreto di un giudice, dell'autorità giudiziaria, e quindi il medico che non lo rispetta, oltre agli altri reati come la lesione volontaria che commette il medico che interviene, pratica delle terapie senza il consenso della persona in cura, commetterebbe un ulteriore reato, che è quello di inadempimento dell'ordine del giudice. È il primo caso in Italia, io lo voglio ricordare, di una sorta di testamento biologico. Lei lo definisce anche di più del testamento biologico, un qualcosa di vincolante. Io voglio ricordare 800 24 00 24 per le vostre chiamate. Onorevole Binetti, le piace questa idea della legge Cendon applicata al testamento biologico, oppure le fa pensare che è il caso proprio di fare una legge a questo punto? Guardi, due cose le voglio dire. Primo, se senz'altro è il caso di fare una legge, e se vuole su questo poi ci torniamo, perché è certo, è il tema del dibattito. Invece rispetto alla, diciamo, globalità del rifiuto delle cure espressa da questo soggetto sano nel momento in cui dovesse ammalarsi, per paradosso le direi che non ci sono problemi, basta che questo paziente non chiami nessun medico e basta che non vada in ospedale. Che problema c'è? Gli antibiotici non li vuole, una terapia diciamo tra virgolette trasfusionale, se si rendesse necessaria, non la vuole. Lei immagini per ogni intervento chirurgico di un minimo di rilievo si procede a, anche soltanto nella forma dell'autotrasfusione, però basta che questa persona non vada in ospedale e non aveva nemmeno bisogno di fare tutta questa trafila, semplicemente diceva a sua moglie lasciami a casa, è finito. E questo però lei come ben sa, in caso per esempio di incidente traumatico, in caso di insomma di non una malattia che ha un decorso prevedibile. Perfetto. Ma allora le voglio dire che in caso di incidente traumatico, quando questa persona arriva in un pronto soccorso, l'obbligo morale è comunque quello di intervenire. Anche disegni di legge più spinti dal mio punto di vista in senso, diciamo, eutanasico, nel senso che sono disegni di legge che danno all'autodeterminazione del paziente uno spazio, a mio avviso, eccessivo e debordante. E anche questi, mi riferisco concretamente per esempio a quello del professor Veronesi, lui però dice quando il paziente arriva in stato critico in un pronto soccorso va rianimato. In un pronto soccorso il medico rianima, perché lui sta lì per questo, perché l'articolo 32, ormai credo che nel paese non ci sia nessuno che ignori l'articolo 32 della Costituzione, però peccato che ne conoscono solo il comma 2. E il comma 2, come dice il termine proprio, è il secondo rispetto al comma 1. Allora lo voglio leggere l'articolo 32, così che facciamo un servizio completo. Articolo 32, comma 1, lo leggo tutto, sono due commi. Articolo 32, comma 1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Comma 2. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Allora lei vede che sì. La scelta dei trattamenti, quindi il rifiuto a un trattamento che io non considerassi diciamo dignitoso per me, oppure semplicemente costoso, è comunque una scelta subordinata alla tutela del diritto alla salute. Quindi io è in ordine alla mia salute che scelgo. Allora, no, ma il tema è molto interessante. A proposito del testamento biologico, così arriviamo anche all'onorevole Benedetto della Vedova. Io ho citato questi paletti che sono stati definiti così, questi aspetti posti dal sottosegretario Roccella, che ha proprio la delega su questo tema, peraltro, a dire uno dei temi, quello forse il nodo cruciale, è questo: l'idratazione e l'alimentazione artificiale, quella appunto, per esempio, nel caso di Eluana Englaro. Sono terapie e dunque rifiutabili secondo l'articolo comma 2 dell'articolo che ho appena letto della Costituzione, oppure sono sostegno vitale, irrinunciabile, come dice Eugenia Roccella, come è la posizione di Paola Binetti, come è la posizione dei cattolici? Onorevole Della Vedova, lei è stato molto duro nel commentare l'intervista della Roccella, a dire a questo punto con questi paletti è meglio non fare nessuna legge, perché? Ma innanzitutto io penso che sia meglio che, almeno in questa fase iniziale, il governo lasci completamente al Parlamento l'iniziativa, riservandosi poi eventualmente, se sarà possibile, se sarà il caso, un ruolo di mediazione, ma credo che non spetti al governo, e lo dico da membro della maggioranza parlamentare, non spetti al governo mettere i paletti preventivamente sulla discussione su questa legge sul testamento biologico. Nel merito, io credo che escludere dal novero dei trattamenti sanitari, al di là che siano o meno accanimento terapeutico, ma escludere dal novero dei trattamenti sanitari l'idratazione e l'alimentazione artificiale sia un non senso, perché come ci spiegano nella media i medici prevalentemente, con grande prevalenza, l'idratazione e l'alimentazione, nel caso per esempio di Eluana Englaro, sono dei trattamenti sanitari fatti da personale sanitario, hanno quella funzione e quello scopo. Quindi l'idea che in qualche modo quello sia tirato via, a questo punto non so, immagino anche la respirazione, sia tirato via dalla componente trattamento sanitario e quindi il testamento biologico, le direttive anticipate, la possibilità di rifiutare le cure, perché l'articolo 32 della Costituzione non dice che la salute è un dovere del cittadino, dice che è un diritto che la Repubblica deve nel primo comma, deve garantire l'accesso ai servizi sanitari, questo è il senso del primo comma, non c'è nulla che riguarda la libertà dell'individuo, di cui si occupa invece il secondo comma, che prevede che lo Stato non possa imporre in nessuna forma un trattamento sanitario, a meno che, appunto, come succede nelle persone affette da gravi disabilità mentali, si fanno i trattamenti sanitari obbligatori. Tornando al punto, quindi io credo che questo sia un errore, sia arrivare a una restrizione che non ha senso, così come io ritengo che, seguendo la sentenza della Cassazione, ma anche seguendo il codice di deontologia medica recente, ma anche seguendo il testo del disegno di legge di Forza Italia votato al Senato nel 2005, più o meno riproposto dal senatore Tomassini quest'anno, bisogna considerare anche i casi di chi il testamento biologico non l'ha fatto, ma ha espresso notoriamente delle convinzioni e delle... Sì. E delle valutazioni. Quindi, se si arriva a una cosa che chiudo, la logica mia è, se si arriva a una cosa troppo ristretta, cioè a una legge che è fatta per impedire il testamento biologico, cioè per impedire che le persone possano dire ora per allora a quali trattamenti sanitari vogliono essere assoggettati e quali no, allora è meglio lasciare la situazione come è. Se lei dice sostanzialmente, se bisogna ogni tot anni ribadirlo, se bisogna andare dal medico, se l'idratazione e l'alimentazione sono espressamente esclusi dalla possibilità di essere considerate terapie, dunque rifiutabili, allora insomma, invece di fare una legge che regoli il testamento biologico, c'è quasi una legge che lo esclude. Per sì. Paradosso, insomma. Sì. Binetti, perché lei ovviamente è di questa posizione sull'idratazione e l'alimentazione artificiale, sono sostegno vitale e dunque assolutamente irrinunciabili. Non c'è un rischio così appunto di limitare invece che dare la possibilità all'accesso di un testamento biologico? Allora, guardi, due cose in questo caso ancora. La prima è questa. Lei ed io, ma nella definizione del vivente, anche della pianta, lei sa perfettamente se c'è a casa sua una pianta che se non la innaffia muore, semplicemente muore, perché la relazione che c'è tra idratazione e nutrizione è una relazione diretta con la vita, cioè c'è un rapporto di causa ed effetto, in poche altre cose c'è questa relazione così immediata e così diretta. Ma è la prima cosa che si spiega ai bambini quando si spiegano i gradi della vita, no? La differenza tra una pianta e un sasso è che io il sasso lo lascio là, non lo nutro, non lo idrato e lui sta lì per i secoli. Viceversa, una pianta se non la innalzi o se non, che modo, se per complesso non la concimo, questa morte. Guardi che però lei sa meglio di me, onorevole, essendo tra l'altro medico, che su questo c'è un dibattito. Voglio dire, quando si parla di nutrizione artificiale, perché si dice dare l'acqua e dare il cibo, non è proprio così, insomma. Intanto noi parliamo di nutrizione e idratazione, diciamo, il modo più corretto in questo momento di parlare di nutrizione e idratazione in questi casi è quello di parlare di una nutrizione e un'idratazione assistita, perché la parola artificiale ha ingenerato nella sensazione, nella sensibilità delle persone, la percezione, come dire, di una tecnica ostile, estranea a quello che io sono, quindi un artificio, qualcosa che viene dall'esterno e che mi invade, no? Infatti appunto tale che alcuni considerano queste terapie come massimamente invasive, questi trattamenti come invasivi. Io credo che parlare di nutrizione assistita ci fa pensare a un'immagine molto più semplice, guardi, che questo è quello che è il punto, secondo me, che dovremmo mettere a fuoco meglio tutti quanti. io posso anche, come dire, prepararti un cibo speciale. Nessuno di noi mangia direttamente molte cose così come sono in natura. Nessuno di noi mangerebbe una bistecca così come si presenta in natura. Tutti la sottoponiamo a una cura, a un trattamento, a un'elaborazione, sì, per renderla più digeribile. E potrebbe anche darci il caso in cui, vuoi perché ci siamo rotti un braccio, vuoi perché ci abbiamo una paralisi, qualcuno ci imbocchi. Qual è l'azione che nessuno può fare per noi e che in questo caso specifico anche Luana compie adeguatamente per sé? Quello di trasformare questo cibo che è arrivato e metabolizzarlo. Fintanto che Eluana e tutti quanti le persone nelle sue condizioni assimilano, questa è la parola, questa è la funzione propriamente individuale, sì, in cui nessuno può essere sostituito e che dimostra che quella nutrizione, che quel sostegno vitale serve. Lei ha vissuto come tutti noi con ansia, preoccupazione, forse qualcuno con speranza, no? L'episodio che qualche giorno fa ha colpito Eluana con quella famosa emorragia, no? Proprio certo, ha visto come l'organismo ha reagito, come si è ripresa, come in qualche modo, in ogni caso, le risorse di energia, le risorse di capacità vitale hanno permesso a Eluana, diciamo tra virgolette, se non vogliamo dire altro, perlomeno di, sì, sopravvivere. Guardi, quindi voglio dire, c'è un'autonomia nella capacità di assorbire questi cibi, no, ma questo è un punto, in se stessa. È un punto fondamentale, è un nodo fondamentale quello della nutrizione e alimentazione artificiale. Il professor Marino, che tra l'altro come sa è suo collega di partito all'interno del Partito Democratico, è cattolico anche lui, ma ha una posizione su questo diametralmente opposta, a dire quelle sono terapie e quindi rifiutabili, ma il bello del dibattito è proprio questo, capire tra l'altro come si arriverà a una possibilità di legge con queste partenze così divergenti. Quale legge fare sull'onda anche emotiva, insomma, del caso Eluana Englaro, con l'onorevole Paola Binetti, l'onorevole Benedetto Della Vedova e l'avvocato Maria Grazia Scacchetti di Modena, che ci ha spiegato il primo caso, dalla quale tra l'altro tra poco ritorno, ci ha spiegato il primo caso in Italia di una persona perfettamente sana che ha in mano oggi da un giudice tutelare di Modena, il giudice Stanzani, un decreto a rispettare le sue volontà. Ha utilizzato una legge che si chiama legge Cendon per arrivare di fatto a un testamento biologico de facto. Due ascoltatori, l'800 24 0024, Alessandro da Pistoia, buongiorno. La linea è pessima, vediamo di ripristinarla. Enrico da Rimini, buongiorno. Sì, buongiorno. Saluti a tutti e complimenti per la trasmissione. Pensavo a questa cosa qui. È molto difficile fare un testamento biologico perché non è una questione di coerenza. Il fatto è che l'esperienza, i fatti della vita ci portano a mutare le nostre opinioni. Quindi nel momento in cui noi abbiamo un'esperienza così grossa come uno stato vegetativo, comunque una grave malattia, non siamo più in grado di esprimere la nostra opinione, ma la nostra opinione può essere cambiata. Quindi lei dice posso esprimere oggi un'opinione che cambia riguardo a un'eventualità di una grave malattia, incidente, ma poi in quella situazione chi va a verificare se la mia volontà in quel momento è confermata? Questo è un aspetto, sia avvocato Scacchetti che onorevole Della Vedova, che viene messo in rilievo da chi è contrario al testamento biologico. Avvocato Scacchetti, la persona che si è rivolta a lei si è posto questo problema, cioè le sue convinzioni possono essere ferme oggi ma non domani? Allora vorrei dire una cosa perché non mi è stata più data la parola. Eccola. Sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Della Vedova, che ringrazio per aver precisato che la Costituzione garantisce un diritto, non ha introdotto un obbligo a curarsi. E un'ultima precisazione sull'intervento dell'onorevole Binetti, che parla di vita, ma dobbiamo intenderci sul concetto di vita. Se la pianta non viene idratata muore, ma se la pianta è già morta può anche essere idratata ma rimane morta. Detto questo, il mio cliente si è interrogato, certo, sulla possibilità di cambiare le proprie volontà. E faccio un'ulteriore premessa: bisogna precisare che il testamento biologico, se verrà mai introdotto in Italia, sarà comunque un diritto, non un obbligo. Nessuno di noi sarà costretto a dare disposizioni anticipate. Ci mancherebbe. Quindi, se uno teme di cambiare volontà, ma che non lo faccia. Per quanto riguarda la richiesta del mio assistito e il decreto del giudice tutelare, direi che molto meglio di qualunque disegno di legge oggi sul tavolo del Parlamento. Lei spera che non ci sia nessuna legge, spera che non venga fatta? Certo, spero che non ci sia nessuna legge, perché per questo decreto apre una procedura, non chiude una procedura, apre una relazione a tre tra il giudice tutelare, la persona interessata e l'amministratore di sostegno, ed è espressamente previsto nel decreto e nella stessa legge, perché lo prevede la legge del 2004, che nell'ipotesi in cui la persona interessata cambi idea non deve fare altro che comunicarlo al giudice tutelare, il quale cambierà il decreto, e nell'ipotesi in cui questa persona non sia in grado più di intendere e di manifestare la propria volontà, l'unica persona, e ci sia un'urgenza, un'emergenza per cui non ci sia il tempo di fare questa comunicazione al giudice tutelare, l'unica persona autorizzata dal giudice tutelare a manifestare a lui e ai medici questa modifica della volontà è quella persona, quelle persone nelle quali il soggetto ha posto la massima fiducia, e cioè la moglie e la figlia. E la figlia. Vogliamo ricordare, lineare, semplice di così, rispetto a tutte queste complicazioni previste, come l'obbligo di riconfermare la volontà ogni sei mesi, l'obbligo di... Beh, semplice, lineare, come se c'è un solo caso in Italia, che è quello del suo assistito, vuol dire che insomma forse... No, io ho già ricevuto una ventina di telefonate, a me, insomma. E Libera Uscita ha già raccolto più di 200 richieste di fare questa procedura. Ah, lei dice insomma si è aperta sì, una strada. Vogliamo ricordare, visto che ce lo chiedono molti, sì, la legge Cendon è credo la numero 6 del 2004, è giusto? È giusto. Va bene, quindi chiunque voglia, insomma, va su un sito internet, su un motore di ricerca, mette legge Cendon numero 6 del 2004. Dica. Mi consente. Allora, tutto l'iter che io ho seguito è a disposizione di chiunque su diversi siti internet, che sono quello dell'Associazione Coscioni, quello del Forum Donne Giuriste, quello... Ma è stato, guardi, anche sul sito internet Guida al Diritto del Sole 24 Ore, quindi si trova, basta insomma un po' essere pratici di internet. Vado dall'onorevole Della Vedova, prima abbiamo recuperato Alessandro da Pistoia, buongiorno. Buongiorno, eccoci, mi sentite dica, ora? Benissimo, dica. Ecco, scusate per prima. Allora, niente, una cosa brevissima. Io penso che non sapevo innanzitutto di questa legge Cendon, lo so ora, grazie a voi. Cendon, con la D di Domodossola, Cendon, dall'autore benissimo. Della legge. Benissimo. Io penso che però l'unica legge fattibile per un problema del genere sia, per quanto mi riguarda, quella di obbligare ciascun cittadino, finché è nel pieno delle sue facoltà mentali, a lasciare scritto... Obbligare sì, mi sembra sì, obbligare, ma questo lo sembra un po' troppo obbligare. Sì, ha ragione, però vede, in questo modo una legge del genere, inappellabile tra l'altro, perché poi lei sa benissimo che le leggi in Italia sono poi interpretabili a seconda dell'orientamento politico, religioso, ideologico del giudice di turno. Obbligare, perché in quel modo si chiuderebbe la bocca alle ingerenze dei cattolici, a chi la pensa anche in maniera opposta, insomma, cioè ognuno sarebbe veramente padrone propria... di fare quello che meglio crede in una situazione drammatica come quella della Englaro. Grazie Alessandro. Prego, sull'obbligo non sono d'accordo, l'obbligare. Onorevole Della Vedova, lei vede nella posizione per esempio dell'onorevole Binetti una limitazione della libertà di chi non crede, insomma, a quelle convinzioni, voglio dire a quei paletti? Come dice per esempio l'onorevole Marino, il senatore Marino ha detto: se uno non crede ai paletti posti dalla Roccella, deve essere libero di poter non credere e quindi portare avanti un proprio percorso. Ma assolutamente sì, ci sono tante persone in queste settimane che si interrogano su questo tema. Ne cito uno, il teologo Vito Mancuso, che riecheggiando posizioni molto presenti nella Chiesa, ancorché dissonanti dall'espressione massima delle gerarchie su questi temi, ma anche il teologo Vito Mancuso che diceva: io per me non lo farei, perché per me finché c'è un qualsiasi battito c'è vita, ma io penso, diceva lui, che per tutte le altre persone che invece credono che la vita non sia solo bios, che ci sia un problema, questo l'ha detto anche il cardinale Martini, di dignità della vita che non può coincidere con la vita biologica, a queste persone bisogna lasciare la possibilità di una scelta e, nei limiti dell'accertabile, di una scelta preventiva. Io anche sull'alimentazione si rischia di entrare in un meccanismo del tutto astratto, casuistico, cos'è trattamento sanitario. È chiaro che nel caso di Eluana, poi io non entrerei in dettagli, ma nel caso di Eluana è una persona che da 17 anni vive grazie ai trattamenti sanitari, chiamiamoli come vogliamo, ma se lei fosse rimasta, come si diceva prima, in casa col papà e non in una struttura sanitaria, sarebbe morta. E quello che noi abbiamo davanti in prospettiva e coloro che attaccano la tecnoscienza cosiddetta dovrebbero esserne consapevoli, è che le macchine, da qualsiasi punto le vediamo, le macchine di trattamenti sanitari saranno sempre più in grado di mantenere il dato biologico, il dato elettrico dei corpi umani vitale. La cosiddetta vita artificiale, insomma. E quindi però questo è un problema. Il tema è se è vita o no, questo insomma. No, ma sicuramente poi appunto non sono le definizioni, è se quella vita ha una dignità o viceversa, se vogliamo impedire a tutti, o consentire come ritengo io, di poter scegliere qual è il limite. Io mi immedesimo in Eluana e nelle tante Eluane e penso, ad esempio, per quel che mi riguarda, che io non vorrei che i miei familiari dovessero assistermi per 15 o 20 anni in una speranza remotissima, statisticamente zero, che io possa tornare a una vita di relazioni e a una vita che abbia una propria dignità. Del resto, e chiudo, su questa questione è confinante, analoga a quella dei trapianti. I trapianti, per definizione, non si fanno sui cadaveri, si fanno su soggetti vivi, poi stiamo a discutere morte cerebrale eccetera, ma su corpi vitali che potrebbero essere mantenuti in quella condizione in molti casi per lunghissimi tempi grazie ai trattamenti. E vi abbiamo dedicato un viva voce anche a questo, no? Dopo il famoso articolo della Scaraffia sull'Osservatore Romano. Un ascoltatore e poi l'onorevole Binetti. Nicola da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono un medico, non più giovanissimo oramai, prossimo alla pensione, e ho insegnato alimentazione artificiale in ambiente universitario per 8 anni. Mi colpisce molto l'idea che le mie allieve che hanno imparato a praticare la nutrizione artificiale a persone che non sono in grado al momento, o forse per sempre, di nutrirsi, debbano essere poi condizionate a staccare l'alimentazione artificiale. Cioè, con quale diritto loro si arrogano il principio di dare o togliere la vita? Per me è allucinante. Per lei è un sostegno vitale, dunque, non è una terapia? È un sostegno vitale e basta, nessuna terapia. Tant'è vero che le dietiste che praticano questa terapia non sono medici. Sono soltanto delle persone che hanno fatto le scuole medie superiori e 3 anni di corsi di specializzazione. Vabbè, non sono medici. La sua posizione, insomma, è molto chiara, insomma, si può allineare anche a quello che ha detto Eugenia Roccella o l'onorevole Binetti. Onorevole, poi le faccio replicare perché immagino avrà da replicare. Prima le faccio anche una domanda. Ma lei, se ci fosse il testamento biologico, per lei lo farebbe, lo scriverebbe? Onorevole Binetti. Lo posso anche scrivere, il problema è che cosa ci scrivo. Io quando ho pensato alla possibilità di scrivere un testamento biologico, tanto per fare un esempio e per contrastare quello che lei mi farà replicare a quello che ha detto prima dalla vedova sui trapianti, voglio dire, mi farebbe piacere nel mio testamento scrivere che io sono totalmente desiderosa di partecipare alla donazione degli organi. Mi farebbe piacere parlare del modo con cui voglio essere trattato, ma anche assumendo tutta una serie di dimensioni, come dire, umane rispetto, che so io, a non volere un isolamento, com'è l'isolamento assoluto con cui certe volte i pazienti molto gravi sono tenuti, e invece poter avere vicino il calore della mia famiglia. Cioè, ci sono tante cose belle che si possono scrivere in queste dichiarazioni, mi creda, ma tante cose davvero belle che riguardano ancora la capacità di dare senso alla propria vita, insisto, per esempio donando i propri organi, la capacità di voler vivere fino all'ultimo momento della vita il calore dei rapporti familiari. Però perché non secondo lei non si può scrivere il contrario? Voglio dire, le giro una domanda, ma una tra tante che arrivano, perché, ci scrive un ascoltatore, la sua fede riferito a lei, onorevole Binetti, proibisce a me laico e non credente di scegliere la mia di fine? Lei giustamente porta... Ma guardi, io gli dico che lei può scegliere tutto quello che vuole, non so come spiegarle. C'è solo una cosa che intenzionalmente e deliberatamente, a mio avviso, non può scegliere, che è la scelta, come dire, di voler morire qui e ora in questo modo, staccando la spina, perché questo per noi si configura come una forma di suicidio e probabilmente anche di suicidio assistito. Però capisce che il punto è nodale, è un punto nodale. Mi faccio fare un esempio paradossale, perché evidentemente è un paradosso, no? Se lei si butta dalla finestra e non muore, è talmente evidente la sua volontà che io non dovrei nemmeno chiamare l'autoambulanza. Perché dovrei chiamare l'autoambulanza e mettere a rischio di vivere quando lei ha espresso platealmente la volontà di morire? Viceversa, non solo chiamo l'autoambulanza, ma mi avvicino a lei, cerco, se fosse necessario, di tamponare un'emorragia, faccio tutto quello che posso per aiutarla a vivere, nonostante il senso del suo gesto sia un evidente e chiaro rifiuto della vita. Perché presuppongo che esiste una solidarietà umana. Guardi, dalla vedova prima ha detto una cosa molto giusta: non vorrei che per 16 anni i miei familiari dovessero, come dire, subire questo peso. È una scelta. Ma ok, però in un contesto diverso, in un clima, lei pensi per esempio alla famiglia Andreatta, tanto per fare un esempio, nota così, con quanta amorevole attenzione ha assistito, no? Cioè l'onorevole Andreatta quando era anche lui in stato di coma persistente. Voglio dire, il senso della famiglia, che noi non possiamo nemmeno disgiungere, guarda, è molto complesso. Onorevole, ma mi rendo conto, ma non ne vede un voglio dire, la famiglia Andreatta che ha fatto il suo percorso, ha deciso così, ha scelto liberamente. Ma se da una parte si mette l'idratazione e l'alimentazione artificiale sono sostegno vitale, se lo si ponesse un domani per legge, dunque... Così noi lo porremo. E lei dice lo porremo, questo è limitante... Evidente, la democrazia. Ma certo, però è limitante verso chi non la pensa come la famiglia Andreatta o come la pensa in un altro modo. Ascolti, allora lei deve avere il coraggio, come procedendo per paradossi, come si diceva prima, di dire, inserire nella nostra Costituzione, nel nostro codice, che esiste il diritto al suicidio. Perché lei lo definisce come tale, insomma, suicidio assistito. Perché c'è una relazione diretta tra la sospensione della nutrizione e la morte. Come sa, insomma, io ripeto, ma sono posizioni anche autorevoli e mediche. L'onorevole Marino, come sa, la pensa all'opposto rispetto Marino, a lei. L'onorevole Marino la fa così, sono 2 anni e mezzo che discutiamo un giorno sì e l'altro pure. Infatti, bello è questo. A questo proposito, della vedova, si arriverà mai con questi presupposti a una possibilità di legge? Le leggo oggi Fabrizio Cicchitto, dunque, tra l'altro del suo partito, tra l'altro, non so se avete notato, insomma, capogruppo, voglio dire, della vedova e del Popolo della Libertà, ma insomma, un percorso molto laico ed è, diciamo, se si vuole, contrario all'Eugenia Roccella, mentre l'onorevole Binetti, che è del Partito Democratico, i cosiddetti Teodem, è a favore di quello che Eugenia Roccella, che ha il governo, prevede, tanto per dire come c'è una trasversalità. Cicchitto oggi ha detto: privare l'alimentazione e l'idratazione a una persona non mi sento di accettarlo. Allora, si arriverà mai a una legge su questi presupposti? Guardi, io penso che si deve avere il coraggio di dire che una legge ha senso se non è una legge per fare dei passi indietro rispetto a quanto ad esempio la Cassazione ha stabilito già essere contenuto nella Costituzione e nelle leggi italiane. L'onorevole Binetti ha detto: lo metteremo per iscritto, cioè se passerà la nostra linea sarà così, si farà un passo indietro. Testo di legge Englaro non potrà più, insomma, ecco, ci siamo capiti. Testo di legge non lo voterei, qualora arrivasse con quella formulazione. Penso che sarebbe un errore. Vede, io voglio dire due cose. Al medico che ha chiamato prima, io non sono un medico, ma anche la dialisi viene praticata, per capirci, dagli infermieri, ma direi che nessuno possa sostenere che la dialisi non sia un trattamento sanitario. Chi svolge materialmente il compito, non credo che sia un metro di giudizio per capire se una cosa è trattamento sanitario oppure no. Chiunque di noi oggi, trovandosi in una situazione in cui il medico chiede di praticare la tracheotomia perché la respirazione, che è anch'essa una funzione vitale, è compromessa, tu per la tracheotomia devi firmare il consenso, devi dire che sei d'accordo, non te lo può imporre nessuno. Quindi io direi che, penso che, ripeto, casuisticamente cercare di distinguere un caso dall'altro ci porta fuori strada. Bisogna anche fare i conti con la realtà, e la realtà, l'onorevole Binetti lo sa, io in questi giorni sono stato avvicinato perfino in Parlamento da persone che si riconoscono appieno nella loro vita di cattolici, eccetera, che ti dicono: guarda, io l'ho fatto per questo, io lo so per quello. La realtà dei fatti, poi, come insegna la tradizione anche delle generazioni che ci hanno preceduto, è che a un certo punto si accompagnano le persone alla morte e non si pensa che, dici, che c'è un battito di cuore c'è vita, perché a un certo punto si fa una scelta. Io questo della vedova la devo fermare, come devo fermare tutti, perché il tempo è scaduto, ma insomma torneremo su questo tema, perché il dibattito sarà ancora lungo, credo, sul testamento biologico. Si dice arriverà in primavera una legge, una proposta legge, chissà. Ringrazio tutti, onorevole Della Vedova, Binetti e avvocato Scacchetti, così come redazione Alessandro Marcotulli, Elisabetta Fusconi e Giorgio Matè in regia. A domattina. Viva voce.